Questa sera si divide in due parti. Io parlerò dei messaggi delle religioni orientali, induismo e buddismo, ma soltanto dei messaggi. E nella seconda parte interverrà l'avvocato Borzaga, che ha lasciato quella fotocopia. L'argomento sono le caste nell'India, la loro formazione, la loro esistenza ancora attuale. Io mi limito a parlare soltanto dei messaggi, quindi escludendo di proposito ogni osservazione o riflessione sullo sviluppo di questi due grandi movimenti culturali e religiosi, perché occorrerebbero dei corsi che si fanno, ovvero nell'università dove si insegnano scienze religiose o scienze o religioni comparate. Perché il campo è talmente vasto che quanto più si apprende, tanto più si deve riconoscere di avere ancora molto da imparare. Quindi i messaggi principali che provengono da queste religioni. Ma prima di passare a questo argomento occorre una premessa teologica per quanto riguarda l'induismo. Esiste una divinità superiore, un assoluto, vero, che si chiama Brahman, una divinità impersonale. Da esso, forse per emanazione, deriva la Trimurti, composta di tre divinità, Brahma, Shiva, Vishnu e Shiva. Brahma che crea, Vishnu che preserva, Shiva che distrugge e trasforma. Queste due ultime divinità sono particolarmente oggetto di culto nell'India, la prima molto meno. Ora è da notare che la seconda persona, questa della Trimurti, Vishnu, si reincarna quando l'umanità ha bisogno di un aiuto per avere un messaggio di salvezza, di pace, per uscire dalla crisi in cui si trova. E tra le incarnazioni più importanti di Vishnu c'è quella di Rao Rama e di Krishna. Krishna che compare nella Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è chiamato il Vangelo universale, il Vangelo dell'umanità. È un gioiello della scrittura sanscrita, che fa parte di un poema, Mahabharata, che è 12 volte superiore all'Iliade e all'Odissea messi insieme. E questo gioiello, questo poemetto, presenta degli insegnamenti, dei messaggi molto importanti e attuali, di alta spiritualità. Incomincia parlando di una battaglia. Si trovano schierati due eserciti sul campo di battaglia, ognuno dei due principi anela al trono e Arjuna, prima della battaglia, rivolge al Dio incarnato, Vishnu, incarnato nella persona del suo cocchiere, delle angosciose domande riguardo la guerra. Domande che è bene leggere brevemente perché sono poetiche, oltre che estremamente commoventi. E dice: le mie membra illanguidiscono, diviene arida la mia bocca, la mente loro, offuscata dalla cupidigia, non vede il male che deriva dallo sterminio delle famiglie, né vede che la perfidia verso gli amici è peccato. Con la rovina delle famiglie vanno disperse le osservanze eterne, e col perire di queste in tutta la famiglia pervade l'empietà. Quindi una condanna esplicita della guerra e dei suoi effetti. Cosa dice allora Krishna a questo proposito? Dice: tu ti affliggi per quelli che non dovrebbero essere rimpianti, eppure parli savie parole. Dici sagge parole, ma i saggi non menano cordoglio per chi muore, perché come alla giovinezza succede l'età adulta, succede la vecchiaia, così alla vita terrena succede poi un'altra vita. Si tratta di cambiare vestito, perché nelle regioni orientali vige il il problema della reincarnazione, mentre in quelle del libro, ebraismo, cristianesimo e islamismo, vige il principio della resurrezione dei corpi, cioè della carne, dopo il giudizio universale, che si uniranno alle loro anime. È una tesi difficile da accettare con la ragione. Naturalmente non vogliamo parlare in questa sede della reincarnazione, perché occorrerebbe una serata a parte, tenendo conto soprattutto di quello che la scienza dice, vero, senza affidarsi a fattori emozionali di simpatia o di antipatia. E allora dice Krishna: sorgi dunque, o figlio di Kun, deciso alla battaglia. Come mai, ci si chiede, Krishna, il Dio incarnato, vero, dice combatti? Un ragionamento, direi, ispirato ad un particolare pragmatismo, per evitare che l'esercito venisse distrutto, cadesse nel disprezzo. Ormai sono sul campo di battaglia, devi lottare. Però la Bhagavad Gita, questo gioiello, vero, dell'umanità, ha numerosi passi che contrastano questa idea dovuta ad una necessità di ordine pratico e immediato, in cui proclama il più rigoroso pacifismo, no? La non violenza, la pace, eccetera. Ora, a proposito di questa tolleranza, è tipica la tolleranza religiosa dell'induismo, e Krishna stesso dice: anche i fedeli di altri dei che li onorano con fede piena, pure essi non fanno che onorare me, benché non proprio in forma giusta. Quindi il Dio incarnato ammette l'esistenza di altri culti, di altre religioni, non è il Dio geloso che punisce fino alla terza e quarta generazione dell'Antico Testamento, diversa da quella del Nuovo Testamento, che è Dio d'amore e di perdono, che oppone alla giustizia occhio per occhio dell'Antico Testamento invece il perdono assoluto e l'amore anche del nemico, cosa umanamente difficile se non impossibile. E a questo proposito Hans Küng, il grande teologo amico del Papa Ratzinger, vero, che insegna all'Università di Tübingen, dove si trova la facoltà di storia e di scienze religiose, direi più famosa d'Europa e forse del mondo, parla di religioni inclusive ed esclusive. Le religioni esclusive sono quelle del libro, che abbiamo detto, il quale fino qualche anno fa, qualche decennio di anni fa, escludevano le altre religioni, la salvezza era riservata solo a loro, vero? Poi naturalmente col Concilio Vaticano II, la Nuova Etate, si ammise che la salvezza è concessa anche a chi segue con fede sincera le altre religioni. E si parla oggi di ecumenismo. Le religioni invece inclusive sono le religioni d'Oriente, perché ammettono l'esistenza delle altre religioni, perché le vedono come vie diverse per raggiungere l'assoluto. Ciò che conta è il fine, non le vie che si seguono. Infinite sono le vie per raggiungere il Signore, quindi non interessa tanto la via che si imbocca quanto il fine che si deve raggiungere. E Küng appunto fa questa interessante distinzione. L'unità sta al di fine, non conta la via che si segue per raggiungere. Ebbene, Krishna dà i suoi insegnamenti morali, vero? Sono tipici dell'induismo e si riuniscono nelle tre vie: la via della conoscenza, dell'azione e della devozione o bhakti. E sono molto importanti. Attraverso la conoscenza apprendiamo una cosa fondamentale, che l'io o Atman, così è chiamata, quindi l'anima per così dire, è una scintilla divina che c'è in noi, derivata dal Brahma, e desidera riunirsi alla sua fonte originaria, che è Dio. Questo la conoscenza. Poi l'altra via è quella dell'azione. Noi dobbiamo agire in questa vita, dobbiamo preservare la nostra salute anche se vogliamo fare del bene agli altri, E quindi agite, dice, si deve agire, ma state attenti, agite senza attaccamento ai frutti dell'azione. Agire bisogna, ma non ci si deve attaccare ai frutti dell'azione. E quali possono essere? Il denaro, il successo, vero, e tante altre cose. Importante questa sentenza. E infine la bhakti o devozione, che noi chiamiamo fede. Solo con la bhakti, dice Krishna, mi raggiungete direttamente. La bhakti è la via più diretta, più immediata, vero? Noi la chiamiamo fede, vero? Per raggiungere l'assoluto. C'è un interessante aneddoto, vero? Dello zoppo e del cieco. Si sono trovati in una foresta dopo aver subito un agguato e dovevano uscire da questa foresta. Come facevano? Uno non ci vedeva, l'altro camminava male. E allora lo zoppo che vede, vero, sale sulle spalle del cieco che invece cammina. No? E così con questa collaborazione possono uscire. Fuori di metafora, lo zoppo che vede rappresenta lo spirito, il quale da solo però non riesce a progredire, ha bisogno del corpo per poter agire. E d'altra parte il cieco rappresenta invece il corpo che sa camminare ma non ha la consapevolezza che è propria dell'altro. Interessante allora, fuori di metafora, questa collaborazione che deve esistere fra anima e corpo da quando l'anima è caduta nella materia. E questo è un principio vero, poi ripreso da Plotino, la caduta dell'anima della materia che poi cerca nella sua ascesa verticale a ritroso di risalire alla patria di origine attraverso vari gradi. Accanto a questi insegnamenti fondamentali, abbiamo visto la via della conoscenza in cui si riconosce che noi abbiamo una scintilla divina in noi, l'Atman, che non è nato e non morirà. Quando il corpo viene ucciso, l'Atman non viene ucciso. Quindi l'eternità di questo principio divino che portiamo in noi. Il fatto di non doversi attaccare ai frutti dell'azione, ma che si deve d'altra parte agire, e infine la fede o la bhakti, la devozione, che è la via più diretta per raggiungere Dio, quelle che sono le ragioni del cuore, diremo, di Pascal, quella che è la fede delle religioni. L'altro insegnamento che ci viene è quello della non violenza, ahimsa, predicata da Gandhi. Ci sono molte monografie su questo Mahatma, grande personaggio, quali tutte dicono che in lui c'erano due componenti, una componente pragmatica, perché per merito suo fu liberata l'India dall'oppressione, vero, degli inglesi, e d'altra parte c'era una componente mistica che si espletava in continui digiuni e in preghiera. Univa in sé due tendenze, direi quasi opposte. È un fatto, tanto mentre si sa che quando c'erano queste manifestazioni per la liberazione dell'India dagli inglesi, gli inglesi mitragliavano la folla, ma una volta successe che due studentesse uccisero un magistrato inglese e allora Gandhi proclamò il lutto nazionale e fu un fatto che scoraggiò, vero? Confuse enormemente, vero, gli oppressori. Questo per dire quanto lui ci teneva alla non violenza. E dice: io ho praticato questa teoria della non violenza in 50 anni di vita e non ho mai sbagliato. Se il risultato è insufficiente è dovuto solo alle mie imperfezioni. E credeva appunto nella non violenza, che non è una resa a chi la pensa diversamente, ma anzi una sfida che si manifesta attraverso la resistenza passiva, attraverso la predicazione, attraverso la preghiera, eccetera. E poi sappiamo che il grande cantore di questa spiritualità induista fu Tagore, vero? Voglio leggere solo due o tre versi. Ecco, dice: la mia liberazione non è nella rinuncia. No, non chiuderò mai le porte dei miei sensi. le gioie della vista, dell'udito e del tatto porteranno impresse il mio diletto. Sì, tutte le mie illusioni fiammeggeranno dalla gioia e tutti i miei desideri matureranno in frutti d'amore. Un canto che assomiglia al cantico del creatore di San Francesco, laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature. Quindi i beni della terra, le candide gioie della vita sono cantate con fastosa partecipazione. Lungi quindi la rinuncia, la fuga dal mondo, il rifiuto dei beni terreni, perché questi si sa che sono un'arma a doppio taglio, vero? Uno può abbandonarsi ad essi, ma può anche servirsene per una propria ascesa ed elevazione spirituale, e sono tante i beni che possono agire a questo scopo: la bellezza della natura, l'innocenza dell'infanzia, la sete conoscitiva, l'amore a un ideale, la gioia della donazione. E perché rinunciarvi? Ecco, passando ora brevemente, perché poi voglio lasciare la parola al discorso più ampio, al buddismo, che è di derivazione induista, ma avversato dagli induisti, tanto che le chiamarono un'eresia, vero? E siccome Nemo profeta in patria, si diffuse in Cina anziché in India. Attualmente ci sono 5 milioni di buddisti in India, ma dovete, vero, esportare la propria dottrina, perché si sa che nella propria terra non viene accettata. Buddha, il suo nome era Siddhartha Gautama, chiamato Buddha, che vuol dire l'illuminato. Nacque nel 560 a.C., morì a 80 anni e nacque nella parte nord occidentale, vero, dell'India, vicino al Nepal. Figlio di un Rajà, visse come un principe nella reggia. A 28 anni uscì, e qui mi richiamo poco al piccolo Buddha, al film, vero, che riproduce abbastanza bene la vita di questo Mahatma. Uscì e fece 4 incontri che sconvolsero la sua vita: la vecchiaia, la malattia, la morte e la povertà. Quindi incontrò un vecchio con tutti i suoi acciacchi, vero, conobbe la malattia, vide un funerale, chiese al padre se poteva liberarlo da questi mali della vita, e naturalmente, essendo un uomo anche sereno, non poteva farlo. Ma fu colpito dalla povertà di un monaco che chiedeva l'elemosina, ma raggiava di beatitudine, aveva nel suo volto una serenità straordinaria. E allora lasciò la reggia, dove aveva una moglie e un figlio, e entrò nella foresta, dove c'erano diversi monaci che praticavano ascetismo, ed egli stesso praticò un rigoroso ascetismo, talmente rigoroso che quasi quasi doveva morire. E un aneddoto dice che, trovandosi sulla riva di un fiume, vide passare una barca con delle persone e sentì questo discorso: la corda troppo tesa si spezza, la corda troppo allentata non suona. Quindi evitare gli eccessi, e scelse la via di mezzo. Quindi non più il rigoroso ascetismo, la fuga dal mondo, l'abbandono di tutti i beni, ma invece un'azione missionaria, che poi lui compì in tutta l'India, vero, predicando la sua scoperta. E quale fu la sua scoperta? La sua illuminazione, che ebbe sotto il Bodhi, che sarebbe l'albero di fico: la vita è sofferenza, è dukkha. E qual è la causa della sofferenza? Il desiderio. La vita è dukkha, è dolore, è sofferenza, e la causa è il desiderio. Desiderio per cose sbagliate. E allora gli propone le 4 nobili verità, vero? Causa del desiderio è il desiderio di cose sbagliate, ma è possibile porvi rimedio attraverso e distinguere attraverso l'ottuplice sentiero: retta conoscenza, retto atteggiamento, parola, azione, vivere, sforzo, pensiero, concentrazione, eccetera. Egli propose la meditazione. La meditazione, che non si svolge su presupposti religiosi, ma è un chiamare a raccolta le forze fisiche e psichiche per attuare la propria elevazione spirituale, e quindi purificare la mente in primo luogo, perché dalla mente deriva tutto. Purificare la mente attraverso la concentrazione, questa costante meditazione da tutto ciò che la può turbare, i desideri sessuali, il desiderio di ricchezza, l'invidia, la gelosia, eccetera. Quando la mente è purificata, allora può raggiungere la pace, quella beatitudine radiosa che si vede sul suo volto in tutte le raffigurazioni. Un aneddoto dice che un discepolo pose al maestro questo problema e disse: non mi hai mai detto se l'universo è eterno, che cosa è il corpo, se è diverso dall'anima? Non ho mai parlato di questi problemi di carattere scatologico e metafisico. Ed egli rispose: ti ho mai detto, vieni e conduce la vita santa sotto il beato, sotto di me, io ti spiegherò questi problemi. Supponi che tu sia ferito da una freccia e che non voglia che questa freccia ti venga tolta se prima non sai chi te l'ha inviata, come si chiama, qual è la sua famiglia, di che natura è la freccia. Tu moriresti se sapessi queste cose. La cosa più importante, quindi, dal punto di vista pratico, è togliere la freccia. E questi problemi lasciamoli dopo, io non te li spiego. Ed egli propose una filosofia della vita per raggiungere la felicità su questa terra, senza angosciarsi nella ricerca e nella soluzione di questi dei problemi metafisici. La cosa non ci soddisfa pienamente perché è un'esigenza dell'uomo sapere che cosa succederà dopo la morte. Ma in ogni caso c'è un abbandono alla metafisica, quella che poi Kant già fece nella sua dialettica trascendentale, nelle famose quattro antinomie, perché sulla libertà, su Dio, sull'immortalità dell'anima, sull'infinità o infinità dell'universo, ci sono argomentazioni in senso positivo e in senso negativo, e tutte ugualmente valide. Quindi con la ragion pura queste verità noi non le cogliamo. Quindi anticipò quello che disse Kant due millenni dopo, parecchi secoli, millenni anni dopo. Queste verità si possono raggiungere o con la fede o con la ragione del cuore di cui parlava Pascal, vero? O con la ragion pratica, vero, dello stesso Kant, cioè della ragione morale. E allora, in che consiste la dottrina, il nucleo di questa dottrina? Nella meditazione che è una meditazione laica, che non si svolge su presupposti religiosi, ma che riesce a darci l'equilibrio interiore, la serenità, la pace, la saggezza, e quindi che ci fa vivere bene in questa vita. Quindi va considerata il buddismo più come una filosofia della vita che come una religione. Tutti la chiamano religione, però è una religione atea che ha divinizzato Buddha. Una cosa che ci lascia perplessi in questa filosofia, che è difficilissima per noi occidentali, non si può certo in poche parole esporla, è che nega la sostanzialità dell'io, come fece Hume in Occidente, che disse che l'io è un fascio di sensazioni in continuo movimento. Quindi riconoscere che l'io è un fluire di sensazioni, di emozioni, di idee, di riflessioni, di volizioni, eccetera, che inarrestabile, quindi l'impermanenza dell'io, cosa che invece l'induismo non accettava perché affermava la sostanzialità dell'io o dell'atman. E quindi è un aggregato di forze, il nostro io, in continuo cambiamento, data la sua impermanenza, ma rimangono delle energie profonde, la volontà, il desiderio, il pensiero. Allora la reincarnazione, che per il buddismo era la reincarnazione dell'io in sempre nuovi corpi, la reincarnazione invece è diversa per il buddismo. È la persistenza o il rinnovarsi di queste energie profonde che possono riunirsi in un nuovo individuo che così raggiunge il nirvana. Interessante della filosofia e della dottrina buddista è la concezione del Bodhisattva, la persona che rinuncia al nirvana, cioè alla pace eterna, vero, imperturbabile, per il bene dell'umanità e quindi accetta questa vita di sofferenza per alleviare le sofferenze, per aiutare l'umanità al suo progresso spirituale. E gli propone questi quattro stati sublimi: amore per tutti i viventi, compassione per tutti quelli che soffrono, compresi gli animali, la gioia nel condividere la felicità degli altri, l'equanimità nelle vicissitudini. Come si vede, un'etica di grande valore spirituale, non nata su presupposti religiosi. E un aneddoto per concludere: fu un pacifista e il buddismo si vanta di essere l'unica religione che non ha fatto delle guerre. No. Noi sappiamo che tutte le religioni ci sono alcuni comandamenti comuni, non uccidere, non rubare, non fare falsa testimonianza, non commettere adulterio, onora il padre e la madre, abbi rispetto per loro, sono comandamenti quelli che Gesù diede al giovane ricco, e sono comuni a tutte le religioni. Stranamente, il comandamento meno applicato è stato quello di non uccidere, con le guerre sante, con le persecuzioni varie, vero, questo è il comandamento dei fondatori delle religioni, che i loro seguaci purtroppo hanno tradito in una maniera clamorosa. Ebbene, questo aneddoto dice che c'erano due popoli che avevano un fiume in comune e ciascuno voleva impossessarsi del fiume per avere l'acqua di quel fiume e stavano per fare una guerra. E Buddha andò dai due re e cercò di convincerli con questa domanda retorica: è più importante l'acqua del fiume o è più importante il sangue dei vostri sudditi? E così ottenne la pace. È un aneddoto. Comunque, egli proibì il commercio delle armi e per questa ragione è una religione pacifista difficile da attuare da noi, da chi ha una mentalità diversa da noi occidentali. E difatti lo stesso Lama disse: rimanete nella vostra religione se vi trovate bene, state attenti ad invocarne un'altra, perché la religione non è soltanto fede, un insieme di dogmi, di verità religiose, vero, ma è anche un fatto culturale, vero, e quindi può creare veramente degli scompensi, dei traumi. Ecco, poi per chi ha desiderio di sapere, dato che io in breve riassunto queste cose, c'è sto libretto che do in omaggio ed altri sempre riguardanti le religioni comparate, libretti di carattere divulgativo. Io lascio allora la parola all'avvocato Borzaga, che avrà molto da dire. Mi sentite? Va bene. Se io dovessi dare un titolo alla mia conversazione di questa sera, potrei usare una parola sola: delusione. Perché non è possibile che io non vi deluda. Dovrei parlare una settimana di seguito, ammesso e non concesso che uno possa continuare a parlare per tutto questo tempo, e non concesso certamente che non abbia la pazienza di ascoltare, perché qui si tratta di entrare in argomento, di parlare di qualcosa come non quattro religioni, perché qui c'è induismo, buddismo, islamismo, poi c'è anche la fede Baha'i. Ma l'induismo non è una religione, l'induismo è tante religioni, quindi sarebbe quasi come parlare di 7-8 religioni. Per cui io vi chiedo subito scusa in anticipo, compatitemi, devo limitare ad un millesimo di quello che è il tema per non essere giustamente preso a sassate o a seggiolate da voi questa sera. E già che siamo in argomento di premessa, vorrei subito dire una cosa. Non so se qualcuno di voi ha letto l'articolo sul Corriere dell'Alto Adige. Sembra quasi che io avessi voluto prendere in giro l'intervistatrice, perché alla fine l'intervistatrice mi chiede: ma con le donne come la mettiamo? E io rispondo: beh, per il problema delle donne ci vogliono alcuni mesi, poi le potrò dare una risposta, no? Ora, anche i bambini sanno che il fatto, nella stessa definizione di casta, nello stesso concetto di casta, c'è il termine di endogamia, cioè io non posso sposare una donna di un'altra casta, ma una donna non può sposare un uomo di un'altra casta. Quindi la legge fondamentale della casta è proprio quella di non sposarsi fuori della casta medesima. E quindi sembra quasi che io sia mancato di rispetto all'intervistatrice. No, bisogna andare qualche riga indietro e vedere qual è l'aspetto esoterico della questione. Cioè, io contesto, e se questa sera me lo consentirete proverò a farlo, contesto l'aspetto sociale e politico delle caste e invece vorrei sostenere l'aspetto esoterico della casta, per cui la casta è un passaggio della medesima persona da una condizione spirituale ad un'altra. Allora, ecco da cosa sorge il problema: che se il maschio indiano procedeva da una casta all'altra, saliva di casta, anche la moglie lo doveva seguire, e se la moglie non lo seguiva, cosa succedeva? Le scritture indiane non parlano a questo proposito, cioè non parlano. Le scritture indiane sono qualcosa di immenso, no? Io finora non ho trovato qualcuno che ponga una soluzione di questo genere. Per questo ho detto, e insisto nel dire, ci vorrebbero mesi di studio per arrivare a questa conclusione, alla soluzione di questo problema. Allora, con la massima velocità possibile, induismo. Induismo, quantomeno sono tre religioni. Abbiamo nell'induismo la Trimurti. Trimurti sarebbe Brahma, Shiva, Vishnu. Trimurti vuol dire Trinità, e non siamo tanto lontani dal concetto, appunto, cristiano di Trinità, come non siamo lontani da un altro concetto. Eccolo qua. Questo in India si chiama Rudraksha, è il rosario dei seguaci di Shiva. Il nome vero di Shiva è Rudra, e Shiva in fondo non è altro che Giove tonante, cioè è il dio delle tempeste, è il dio del tuono, è il dio degli uragani. E allora questo qui invece è il rosario dei musulmani, quindi vedete che il mondo è più piccolo di quello che si creda. Perché verde? Perché il verde è il colore di Maometto. Invece questo Rudraksha, questo rosario indù, è fatto di bacche di una pianta indiana di cui io non ricorderò mai il nome, che ha la caratteristica di essere composta, la bacca, di 5 parti separate. Perché 5 parti? Perché ricorda simbolicamente la testa di Brahman, che secondo la mitologia aveva 5 teste, e quando c'è stato un po' di bega in famiglia tra Brahman e Shiva, Shiva ne ha tagliata una. Ad ogni modo, quante sono queste bacche? Sono 108. Perché 108? Perché 108 sono le vie del Signore. Il Vangelo dice le vie del Signore sono infinite. L'induismo, lo shivaismo, dice che 108 sono le asana, le posizioni yoga, perché Shiva è indicato, è conosciuto soprattutto come asceta e come asceta yoga, no? 108 sono le vie, diciamo, per 108 sono le posizioni, le asana yoga di quella determinata scuola shivaita, ma 108 sono anche le vie per raggiungere la liberazione, la felicità, la realizzazione. Quindi praticamente diciamo che il fedele che sgrana questo rosario in certo qual modo rievoca man mano che va avanti le 108 porte, insomma, che ci sono da superare, attraverso le quali si può passare. Velocemente, Shiva non è un nome, ma è un epiteto. Shiva vuol dire propizio. Perché? Perché è un dio talmente pericoloso che è meglio trattarlo con tutti i riguardi. Allora lo chiamavano il propizio, perché si comportasse bene e non fosse troppo cattivo. Voi sapete che tutti gli dei indiani hanno una moglie che è un aspetto femminile, della stessa energia, della stessa divinità. La moglie di Shiva è Parvati. Parvati vuol dire la montanara, è la montagna. Ora state bene attenti, abbiamo il tuono, abbiamo la nuvola del temporale, no? Con tuoni, fulmini, uragani, eccetera, che si addensa attorno alla montagna. Quindi non a caso c'è questo simbolismo. O Parvati in particolare è proprio l'Himalaya. Parvati è la seconda moglie di Shiva, perché Shiva è vedovo. La prima moglie si chiamava Sati e gliel'hanno uccisa. Sati voleva dire fedele, era proprio la fedele per eccellenza. E forse proprio perché era troppo fedele, qualcuno l'ha ammazzata. Ad ogni modo, nel mito si parla di Daksha, che è lo spirito del male, il cattivo, ma si sarebbe vendicato perché Daksha aveva invitato Shiva a un incontro tra dei e Shiva non aveva accettato. Allora, tanto per vendicarsi, gli ha ucciso la moglie. Shiva è rimasto talmente disperato della perdita della sua donna che ha preso nelle braccia il cadavere della moglie e ha cominciato a danzare. Adesso probabilmente qualcuno di voi conoscerà l'espressione Shiva Nataraj. Shiva Nataraj vuol dire Raj è re, no? Nata è la danza, il re della danza. Quel cerchio che voi vedete con Shiva dentro che danza e con tutte le fiamme intorno è appunto la raffigurazione di Shiva Nataraj, che è quanto di più spaventoso possa succedere nell'universo, perché quando Shiva danza distrugge tutto, no? Poi immaginatevi questo dio degli uragani che poi si mette, invece di star fermo, si mette anche a danzare. Ci sono dei terremoti che fanno spavento, insomma. Per fortuna che sono intervenuti gli dèi, che hanno detto guarda che qui ci andiamo di mezzo anche noi se tu continui a danzare. Allora lui si è fermato, si è calmato e si è trovato l'altra moglie che è la Parvati.